G. Fonetica. Ascolta e indica la parola o le parole che senti. 1. Parlò per ore senza fermarsi. 2. Gli costò il posto di lavoro. 3. Fu un notevole salto di qualità. 4. Lo confinò all'isola di Caprera. 5. Fu solo per fini personali. 6. Se ne andò senza neanche un saluto.